Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Ultima puntata del 2014 di Focus Economia, una buonasera da Sebastiano Barisoni, puntata particolare come immaginate, come sempre facciamo il 31 dicembre, puntata che dedichiamo oggi a un tema che obiettivamente in quest'anno travagliato, non che gli anni precedenti non lo fossero stati, ma insomma travagliato tra governo Letta che poi lascia l'incarico, il governo Renzi, i temi di carattere europeo e appunto i nuovi commissari europei, con un PIL che quest'anno non cresce, ormai lo diamo per acquisito, e ci becchiamo una recessione anche nel 2014, con un petrolio che è calato oltre ogni previsione, una Russia che si è fermata e andrà il prossimo anno in recessione, il rublo è crollato, cosa devo aggiungere? La Grecia che si ripresenta proprio nelle ultime settimane come tema e ancora tutta la braccio di ferro forse eccessivo, ma tutta la dialettica a livello di Bruxelles sul piano Juncker, secondo molti è più così un ottimismo della volontà che un ottimismo della ragione, cioè un piano in cui 300 miliardi vengono ipotizzati come contributo dei privati, un effetto leva, ma tutto da dimostrare. Dicevo, all'interno di tutti questi temi che ci hanno accompagnato, sia di politica interna e quindi governi italiani, sia di politica estera e quindi rapporto con l'Europa e dati economici peggiori delle attese, l'Europa che comunque un passo vero e proprio forte verso una politica per la crescita non l'ha ancora fatto, con buona pace di Juncker e del suo piano, ci siamo un po' dimenticati delle economie emergenti, nell'anno in cui però il nostro export ha continuato a crescere. Certo c'è stata una battuta d'arresto per quello che riguarda la Russia, ce ne siamo occupati moltissime volte, meno 20% gli ultimi dati dell'export italiano in Russia negli ultimi mesi, e questo peserà per 1,2 miliardi, 1,3 miliardi sul dato complessivo delle esportazioni. Però il nostro sistema produttivo ha continuato non solo ad aumentare i dati sull'export, ma anche a internazionalizzarsi, ossia in un recente dato dell'Istat, gli investimenti italiani all'estero nel periodo 2013-2014 hanno riguardato 160 paesi con 21.830 controllati. Nel caso specifico è il settore servizi, il 63% degli intervistati ha detto di aver realizzato o di aver programmato nuovi investimenti all'estero, l'industria il 54%. Se nel 2012 la presenza delle multinazionali italiane all'estero è rappresentata da 21.830 controllate in 160 paesi, questo lo si deve allo sforzo. Sono 1.700.000 gli addetti all'estero, il fatturato lì realizzato è di 564 miliardi. Attenzione, stiamo parlando in questo caso di internazionalizzazione del sistema produttivo, non di delocalizzazione, cioè non è tanto andare a chiudere la fabbrica, lo dico in maniera un po' spiccia, chiudere la fabbrica o capannone qui e andare a produrre all'estero. Si tratta di aumentare, ecco perché i servizi, la struttura della rete commerciale all'estero, in molti casi, quindi distributore, rete commerciale, società controllate nei vari paesi, e anche di produrre per quei mercati all'estero. In questo caso si parla di internazionalizzazione. Dicevo, c'è un paese che quest'anno è passato un po' nell'oblio, perché non ha avuto grandi notizie, se non un rallentamento dell'economia che ha preoccupato metà anno. Il paese, la Cina, resta l'orizzonte, la Cina e diciamo tutto ciò che vi è attorno, Hong Kong che è cinese, ma penso anche al Vietnam e al sud-est asiatico, resta l'orizzonte più interessante, a maggior ragione in un 2015 in cui difficilmente la Russia potrà tornare a regime nei primi mesi. E quindi il Brasile va bene, ma ha delle dimensioni più piccole oggettivamente. Tanti altri mercati emergenti, Indonesia su tutte, Sudafrica in chiaroscuro, ma la Cina resta il grande obiettivo non per produrre in questo caso soprattutto, ma come mercato dove vendere e quindi eventualmente anche produrre, ma dove avere una rete commerciale. Di questo parleremo oggi con diversi ospiti. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, le esportazioni verso la Cina, che rappresentano il 2,5% del totale del nostro export, a novembre hanno fatto comunque più 2,2% rispetto all'anno prima. Il nostro import, quello che noi importiamo dalla Cina, invece è pari al 20% di tutto quello che importiamo, è un quinto, e a novembre ha fatto più 8%. Tant'è che sempre a novembre il saldo commerciale tra Italia e Cina è negativo, nel senso che è a favore dei cinesi, per poco più di 1 miliardo. Dicevo, i mercati vicini, immaginiamo l'ASEAN, cioè Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Thailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Birmania, Cambogia, più 20% il nostro export nel mese di novembre. Faccio notare che in America è andato molto bene il nostro export a novembre, più 15%, Russia, dicevo, il crollo, meno 23%, e America del Sud meno 8%, perché qualche problema, soprattutto in Brasile, c'è. Ora, negli ultimi 10 anni Cina, India e Indonesia da sole hanno fatto un quinto di tutta la crescita mondiale e si stima che nei prossimi 10 anni la loro crescita possa rappresentare il 30% della quota globale. Conseguentemente aumenterà la classe media cinese, cioè quelli che sono in grado di spendere tra i 10 e i 100 dollari al giorno. Entro il 2020 l'85% della crescita della classe media proverrà dalla regione Asia-Pacifico. Oltre 1 miliardo di nuovi consumatori in grado appunto di spendere questa cifra, di essere considerati classe media. Attualmente sono 150 milioni i cinesi che hanno un potere d'acquisto da classe media e 500 milioni potrebbero entrare in questa fascia nei prossimi 10 anni. Lo dico perché, per evitare l'obiezione, andiamo a produrre in Cina e chiudiamo in Italia. No, lì c'è un mercato in cui vendere anche i nostri prodotti, avendo dei bravi distributori e delle volte anche producendo lì. I consumi cinesi, nel caso specifico quelli per abitazione e sanità, l'abitazione è uno dei cavalli di battaglia del Made in Italy, sono previsti in aumento del 10%. Il governo cinese sta nel frattempo incoraggiando i consumatori a spendere, perché il grosso del PIL cinese veniva creato dagli investimenti fatti anche dal governo, infrastrutture, nuove fabbriche, dai privati, non dai consumi. Entro il 2020 l'obiettivo del governo di Pechino è arrivare a un 60% del PIL composto da consumi. Attualmente sono al 50%, pari a 1.000 miliardi di dollari in più di consumi rispetto ai livelli attuali. Allora, i nostri ospiti: Saro Capozzoli, l'ingegnere fondatore di Gesa Capital Holding, da oltre 20 anni in Cina, è molte volte nostro ospite. Buonasera Capozzoli. Buonasera. E grazie anche a Roberto Mandola, che è uno dei partner di Dora China Channel Management e promuove i prodotti italiani nel settore B2C, cioè da chi li produce al cliente, con l'e-commerce soprattutto, e B2B, e quindi mettendo in contatto le aziende italiane con aziende cinesi, importatori, distributori o retailer che operano nel mercato cinese. Allora, prima Capozzi, poi Mandola, vi ritrovate in questi dati e soprattutto rispetto agli ultimi aggiornamenti fatti ormai, ahimè, quasi un anno fa, come si sono mosse le aziende italiane in Cina? Perché i dati aggregati segnalano comunque un buon andamento anche nel 2014. Sì, c'è un continuo, diciamo, una continua ricerca di nuove opportunità in Cina. Diciamo che le aziende che arrivano in Cina sono un po' più selezionate. L'azienda piccola o molto piccola trova più difficoltà ad orientarsi in questo paese. Le aziende medie hanno cominciato a strutturarsi e a cominciare anche ad aggregarsi a volte per poter affrontare questo mercato. E quindi vedo molta determinazione, proprio perché ci si è cominciati a rendere conto che è un mercato che non si può ignorare e che bisogna coltivare con la presenza diretta. Lei ha, diciamo, uffici a Shanghai, a Pechino e anche in Mongolia. Quando gli imprenditori italiani la contattano, intanto per quale prodotto e poi che cosa chiedono? Di produrre in loco o più che altro la rete commerciale? Beh, generalmente ci chiedono prima di tutto di sviluppare una rete commerciale. Noi facciamo questa valutazione, ma spesso succede che per la tipologia di prodotto, per la tipologia appunto di business, bisogna essere presenti, perché il cinese chiede un rapporto diretto sul territorio. Ecco, allora, andiamo per macro settori, cioè quali prodotti, per quali prodotti è più facile o può bastare, diciamo, la rete commerciale? Che non è una cosa facile, perché creare una rete commerciale in Cina vuol dire creare una rete commerciale in un enorme continente, di fatto, sì, anche se non è un continente. E quali invece categorie merceologiche hanno più bisogno anche di produrre lì? Sì, diciamo che quando si viene in Cina si pensa che con un solo distributore si possa poi seguire tutto il mercato cinese, è qualcosa di praticamente impossibile. Noi cerchiamo appunto di differenziare, di far capire appunto che bisogna creare diverse aree, diversi approcci, diversi linguaggi addirittura, e bisogna strutturarsi. E nel settore, ad esempio, anche diciamo del lusso o dei prodotti più tipicamente italiani, penso che questo basti poter esportare dall'Italia, però strutturando una presenza che bisogna poi governare e educare poi il distributore locale. Mm. Per altri settori, che stiamo parlando di, non so, del settore automotivo, settore un po' più industriale, cioè meccanica ad esempio, quando bisogna anche andare a fornire, non so, le ferrovie o l'industria aeronautica o aerospaziale cinese, è richiesta anche dai propri clienti la presenza locale, perché vogliono avere l'assistenza entro 24 ore, vogliono avere una struttura presente per poter dialogare, ma anche per poter diciamo avere il rapporto diretto. Nella moda non lusso, perché il lusso è chiaro quello che lei dice, sì, quando un prodotto è di fascia altissima, sì, anzi vuoi, come abbiamo scoperto in molti casi, che venga prodotto in Italia, abbiamo fatto anche una puntata sul reshoring, cioè aziende che tornano in Italia per produrre in Italia perché la qualità non era garantita all'estero. Ma su fasce medie o medio-alte, però non di lusso, ecco lì basta, diciamo, avere un bravo distributore e dei bravi agenti o dei bravi distributori e dei bravi agenti sul territorio che ti dicono anche che cosa vuole, per esempio, la moda cinese, o occorre andare a produrre in loco? Ci sono settori dove bisogna cominciare a pensare a produrre in loco, e nel settore, ad esempio, del food. È un settore dove sì, abbiamo il nostro Made in Italy, però ci sono anche prodotti che possono anche essere prodotti localmente. Per dire, Beretta Salumi produce in Cina per il mercato cinese. Ci sono anche altri prodotti locali con prodotto non Made in Italy, ma con di stile italiano, però per il mercato locale, per poter affrontare un mercato più ampio a un prezzo più competitivo. La Danone, la Nestlé, grandi aziende, sono presenti con più stabilimenti, proprio per... Non si può pensare di portare uno yogurt della Svizzera. Ma no? Lì abbiamo anche prodotti deterribili. Ma mi interessava il settore moda o arredo, legno, design, cioè i settori forti, a parte la meccanica e l'alimentare, del Made in Italy. Nella parte non lusso, e vale anche per il legno arredo e quindi design, non nella parte, diciamo, altissima, conviene seguire i gusti dei cinesi, cioè, o basta, tra virgolette, avere, ripeto, una rete, per quanto importante, in loco, che ti dica: guarda, va più questo prodotto. Allora, nel settore della fattispecie dell'arredamento, loro cercano il prodotto Made in Italy. Cercano il prodotto Made in Italy. In certi settori, tipo la cucina, le cucine che devono essere fatte tailor made, fatte adattate, o certi prodotti che devono essere adattati all'ambiente, si cerca anche una lavorazione locale per poterla adattare agli ambienti. Poi diciamo che dopo i vari scandali che ci sono stati in passato, tipo Da Vinci, eccetera, dove c'erano molti prodotti che italiani, fra virgolette, che vengono però prodotti in Cina, c'è molta sensibilità su questo. Il cinese addirittura vuole visitare la fabbrica in Italia per essere sicuro che il prodotto venga fatto in Italia, che diventa anche un'occasione di turismo. È veramente un fenomeno molto ampio. Ci sono, quindi, avere in questo settore è consigliabile avere un'ottima rete commerciale presente localmente, dando tutto il supporto, facendo visite anche frequenti, e avendo un ufficio poi comunque locale, commerciale, aiuta, perché i distributori devono essere comunque seguiti, educati e monitorati. Eventualmente, se non raggiungono i loro risultati, poi possono essere sostituiti. Io conosco aziende che hanno anche 50-60 distributori. 50-60 distributori, sì, in Cina. In Cina, sì. È un problema seguirli poi, no? Sì, infatti quando si chiede una presenza, noi suggeriamo una presenza più commerciale, un ufficio che abbia delle persone che facciano da monitoraggio, ma anche da... Cioè che seguono a loro volta i vari fornitori, sì. I vari distributori. I distributori, sì. Allora, su questo vorrei sentire appunto anche Roberto Mandola, perché voi avete sul fronte, come dicevo, clienti, lavorate attraverso l'e-commerce, e invece nel B2B... cioè non cliente finale ma distributore, lavorate fuori dall'e-commerce in maniera tradizionale. Si ritrova in quanto è stato detto e sia dal punto di vista dell'approccio generale che delle singole categorie merceologiche? Devo dire effettivamente, diciamo, l'analisi che è stata fatta è molto realistica in base anche all'esperienza che stiamo come dire, promuovendo in base al progetto e lo stato avanzamento del nostro progetto. Il mercato Cina è veramente un mercato in cui è fondamentale lavorare da un punto di vista commerciale dall'interno, con una presenza molto stabile e con degli strumenti all'altezza anche di quelle che sono un po' le aspettative e le proiezioni, insomma, dei risultati che un'azienda può attendere da un mercato come quello della Cina. Confermo che è molto importante una presenza a livello commerciale nel settore B2B e un'assistenza quotidiana rispetto alla linea distributiva, agli importatori, le sales, hanno un approccio da questo punto di vista ancora molto legata al contatto diretto. Ed è molto importante che questo rapporto sia seguito da un operatore commerciale cinese, quindi non è, come dire, non è così banale creare una rete commerciale che sia fatta da personale locale e che possa seguire quella che è anche l'obiettivo e la mission dell'azienda rispetto a un'operazione di internazionalizzazione. La nostra piattaforma in questo caso specifico ha proprio questo come obiettivo, per cui di creare una linea, una strategia commerciale dall'interno del paese nel segmento in questo caso del B2B che possa, diciamo, quotidianamente gestire le relazioni e creare relazioni e costruire in questo modo la crescita dell'azienda e del prodotto. Poi, come diceva giustamente prima il mio collega, è molto importante fare uno studio analitico del prodotto con il relativo posizionamento sul mercato Cina, perché alcune volte è strategico produrre all'interno del mercato trovando partner forti e che, diciamo, siano in grado di mantenere alcune caratteristiche anche del prodotto, perché l'obiettivo più difficile poi è quello di mantenere i plus del prodotto, diciamo, occidentale che vogliamo diffondere nel mercato interno cinese. Mentre sul segmento e-commerce è veramente fondamentale promuovere una strategia anche lì studiata nelle fasi iniziali del percorso internazionalizzazione, perché è fondamentale posizionarsi all'interno di quelli che sono le piattaforme online per il prodotto selezionato con attitudine più alta, per cui è molto importante, ecco, e è quello che noi facciamo con il nostro progetto, la nostra piattaforma, andare a selezionare quelle che sono le piattaforme e-commerce in termini di fatturato, di conversione, target di utente che vanno incontro al prodotto che l'azienda italiana vuole posizionare su questo tipo di segmento. E i numeri, devo dire, sono veramente impressionanti in termini di espansione e di crescita, per cui il 2014 è stato il primo anno in cui il sistema e-commerce cinese ha superato in termini di volumi il sistema e-commerce statunitense, quando appena due anni fa c'era una distanza quasi del 70% dei volumi, per cui il volume di crescita e i volumi stessi sono diventati un'opportunità veramente... Mandola, mi tolgo una curiosità, però dal punto di vista poi l'e-commerce prevede che poi il pacco venga consegnato, l'oggetto, esatto. Il bene venga consegnato. Ecco, siccome abbiamo avuto ospite recentemente proprio l'ingegnere Carlo calo delle poste italiane, ma era sul fronte Italia. Esatto. Lì invece poi consegnare il capo d'abbigliamento, il non so se si possa, se io sui pezzi più costosi penso a macchinari per le imprese, dubito che si possa fare in senso come e-commerce classico. Certo. Realtà, però dico, tutto quello che viene, c'è un problema poi logistico o su quel fronte invece tutto fila liscio? Allora, in realtà il problema logistico, come un po' in tutti i paesi, a maggior ragione sulla Cina, diciamo, occupa un aspetto fondamentale nella strategia e-commerce. Mm. Devo dire che noi abbiamo lavorato molto sulla nostra piattaforma per avere partner che ci garantiscono la consegna nelle 48 ore su tutto il territorio cinese. Addirittura siamo riusciti a collaudare anche la linea del congelato, che è come dire, una delle mission più difficili in tutti i territori, non solo su quello cinese, legato all'e-commerce, con test di consegna fedeli al 99,7%, per cui devo dire che questo naturalmente dal nostro punto di vista è stato lo sforzo più grosso alla fine, da un punto di vista strategico della nostra piattaforma. È questo che noi riusciamo a garantire all'azienda italiana, per cui in realtà si affidano a noi in tutto e per tutto, per cui sia da un punto di vista commerciale che da un punto di vista anche logistico. Abbiamo, come dire, creato uno strumento che è, diciamo, quello della trading a capitale straniero e a servizio della piattaforma, proprio con l'obiettivo di dare un, diciamo, una serie di servizi che coprono l'esigenza di posizionamento del prodotto a 360 gradi col livello massimo, diciamo, di professionalità e anche... Però qualche problema c'è nella consegna, mi sembra di capire. Diciamo che i problemi ci sono, vanno gestiti. E devo dire che il partner che ci segue da questo punto di vista è uno dei più qualificati. No, ma io non, diciamo, insomma, cioè, la logistica non è che non la possa risolvere da solo. Rapidamente, perché poi vorrei passare dopo il meteo e la pubblicità, vorrei passare alla parte che riguarda gli investimenti cinesi in Italia. Però Capozzoli prima e Mandro dopo, l'errore più comune che compiono ancora le imprese, allora noi sappiamo che ci sono dei limiti strutturali al nostro sistema di imprese, mi riferisco alle piccole dimensioni, ma non è che valgano solo per la Cina, valgono per i mercati distanti, e qui c'è un lavoro che comunque le imprese stanno facendo, grazie anche in alcuni casi alle associazioni territoriali, penso a Confindustria che ha organizzato su questo workshop e tentativi di metterle in rete. Tu non puoi obbligare le persone a fondersi, le imprese a fondersi, però almeno a fare, a abbattere i costi fissi con logiche di rete, di filiera, avere anche per il credito bancario una logica di rete e di filiera. C'era tutta l'ipotesi appunto sul bonus, il credito, scusatemi, di distretto, credito di rete, però resta un tema di dimensioni troppo piccole in alcuni casi e delle volte anche un po', lo dico con massimo rispetto, di provincialismo, e cioè un errore che adesso mi sembra di vedere un po' meno, si pensava che la Cina potesse essere affrontata come mercati dell'Europa occidentale oppure dell'est Europa, che in realtà sono mercati vicini e dove la conoscenza è più forte, le barriere linguistiche sono minori. Vorrei capire, dopo il meteo e la pubblicità, da Capozzoli e poi da Mandra, se questi sono ancora errori presenti o... Se ve ne sono degli altri che magari non emergevano nei primi anni dell'avvicinamento italiano alla Cina. Puntata speciale di Capodanno, no, l'ultimo dell'anno, Capodanno è domani, ci mancherebbe. Però domani il programma non c'è, quindi ultima puntata del 2014, in ogni caso su questo possiamo essere d'accordo. Allora, dicevamo della Cina e degli investimenti italiani in Cina, ripeto, vedo alcuni messaggi su questo, ce ne occupiamo oggi per un senso di colpa, perché come spiegavo nell'introduzione, con tutte le notizie di quest'anno quasi mai ci siamo occupati di Cina, e siccome resta, e come ricordavo, l'intera area, quella maggiore crescita e maggiore intensità ripeto, basta un dato, l'85% della, entro il 2020 della crescita della classe media proverrà dall'area Asia-Pacifico. Siccome noi facciamo Made in Italy, che va anche e soprattutto alla classe media, poi medio alta nel lusso, quella è l'area. 1 miliardo di nuovi consumatori in quell'area, e mi riferisco a Cina, India, Indonesia soprattutto, in grado di spendere tra i 10 e i 100 dollari al giorno. Allora, dicevamo degli errori, Capozzoli, citavo già le debolezze più che gli errori del nostro modello di impresa. Quali sono gli errori più frequenti quando le imprese italiane vogliono o vendere in Cina, quindi cercare ufficio commerciale e reti di distributori, o produrre per vendere in Cina? Perché, come lei ricordava, in alcuni casi non basta semplicemente vendere dall'Italia. Sì, diciamo, l'errore più grosso è partire per la Cina senza conoscere il mercato nella maniera più corretta, perché succede ancora aziende che vengono, hanno semmai in tasca delle ricerche di mercato vecchie di 2-3 anni e purtroppo il paese si muove molto velocemente e bisogna comunque aggiornare quello che è la strategia del momento, ma anche guardando cosa succederà fra 5, 10, 15 anni. Quindi il fatto di studio del mercato, ma anche quando si va a fare una fiera e non conosco quali sono i miei concorrenti cinesi, non dico solo quelli stranieri, ma quelli cinesi, e a volte succedono degli imprenditori che dicono: ma è arrivata questa persona nello stand, chi è? E guarda che questo è il tuo più grosso concorrente o il tuo più grosso potenziale cliente, come l'hai trattato? Ah, non lo sapevo, non l'ho neanche accolto. Ecco, succede molto spesso anche questo. Quindi un po' di impreparazione. Impreparazione, cioè. Quindi prevedere una distribuzione capillare, non con un solo interlocutore, ma andando appunto a guardare anche altre la Cina sta praticamente 32 volte l'Italia, le dimensioni sono enormi, dobbiamo veramente differenziare l'approccio. Quindi lo studio è molto importante da farsi è su adattare il proprio prodotto al mercato, perché non tutti i prodotti sono fatti. Un esempio: una volta c'era un produttore di cappe per cucina e finché produceva le cappe per cucina in Cina per esportarle andava bene. Quando ha deciso di venderle in Cina si è reso conto che non andavano bene per il modo di cucinare che c'è in Cina, cioè il ventilatore, l'aspiratore era troppo poco potente per poter assorbire tutti i fumi e gli oli generati dalla cucina cinese, quindi era un adattamento. Errori invece nelle pratiche di accordo commerciale. Noi quando ci occupiamo di Cina per la prima volta nel 2005, se non ricordo male, 2006, scoprimo che la prima fase, quella delle joint venture, era stata largamente un fallimento, nel senso che la scorrettezza, diciamo, tutta anche degli imprenditori cinesi ha fatto sì che in molti casi la società partecipata, poi il socio cinese, non si comportasse correttamente, non dico sempre, ma dico in molti casi. C'era stato un primo errore nel pensare di vendere i prodotti italiani lì to cure, che era fallito. Poi un secondo errore nella seconda fase di fare joint venture, in cui o il socio cinese non rispettava gli accordi oppure ti apriva accanto la fabbrica identica a quella di cui tu avevi partecipato nella joint venture. E poi si è arrivati alla terza fase, in cui si va con le proprie risorse, chi ce le ha, direttamente in Cina, ripeto, o per la rete commerciale o anche per produrre. Ora, rispetto a questi errori dovuti anche appunto a una non conoscenza, che cosa è migliorato? Ma lei citava già anche un po' un approccio ancora troppo facile, se mi passa il termine, troppo semplice. Sì, noi vediamo imprenditori che vengono da noi e vogliono fare la joint venture con il cinese incontrato semmai un mese prima in fiera, oppure con indicazioni date dal cameriere del ristorante cinese di Padova, un caso proprio reale, che gli ha indicato un parente con cui fare una joint venture. Ecco, infatti noi diciamo la regola d'oro. Qui però siamo appresa poco. La regola d'oro che noi, perché molti pensano, io vado a fare il mio joint venture col mio distributore, oppure col mio cliente, oppure col mio fornitore di componenti. Sono i tre errori che si fanno più frequentemente, perché il cliente ha tutto l'interesse a produrre con te il prodotto, perché così si accapara del tuo know-how. Certo. Il fornitore di componenti a un certo punto diventa poco trasparente. Io ho visto anche fornitori di 10 anni di storia che a un certo punto, una volta che hanno in mano tutto il prodotto, non solo il componente, cercano di fare da soli. La terza sono i distributori, perché nel momento in cui il prodotto ha successo e incomincia a diffondersi su tutta la Cina, ha tutto l'interesse poi per fare da solo. Quello che noi consigliamo sempre, quindi non dico che non si devono fare joint venture, bisogna farle pensando, ci sono dei progetti che abbiamo seguito, abbiamo lavorato 2 anni nella ricerca del partner. È un match, un matrimonio che deve avere almeno 20 anni di vita, di storia, bisogna studiare bene. Quindi le improvvisazioni anche in qui, che noi vediamo molto spesso, che sono anche in buona fede, perché c'è un innamoramento molto spesso vedo con partner, che poi purtroppo vengono fuori delle delusioni che sono dovute da entrambi, diciamo, le sì, però lei dice, giustamente, ma come ci si tutela verso il distributore che poi vuole fare da solo, o chi commercializza una componente poi vuole fare il pezzo completamente da solo, o addirittura il cliente finale che punta a rubarti il mercato? In quel caso lì, se è possibile, noi cerchiamo sempre di valutare di andare da soli, perché la legge cinese permette di poterti espandere, di produrre da solo, cercando appunto di trovare le persone e le competenze, e poi avendo non solo un distributore, al limite prendendo un general agent molto importante, e allargare la distribuzione, ma tu resti in mano del tuo know-how, know-how che è produttivo, che resta tuo, e non lo dai in mano a un terzo. Poi si può vedere nell'evolversi 3, 4, 5 anni in cui si lavora insieme e c'è un'evoluzione, si può anche decidere poi di andare a fare un joint venture insieme, però ci deve essere un percorso fatto in questi termini assieme, e non andare appunto a espandersi in questa maniera. Allora, anche perché poi vorrei toccare il tema degli investimenti cinesi in Italia, per quanto immagino che per chi ci ascolta sia importante anche e soprattutto cercare di aumentare il mercato. Però volevo capire appunto anche con Mandola se è chiaro che voi avete, facendo e-commerce, altro tipo di garanzie, però nel B2B, quando mettete in contatto le aziende italiane con importatori, distributori e retailer, questi rischi sono ancora presenti? Ma effettivamente sì, cioè i rischi, diciamo, di un mercato, tra l'altro, che si trovano non solo sul mercato cinese. Ah beh, no, infatti sì. Questo va bene precisarlo, perché sì. Poi però ecco, da qui nasce proprio l'esperienza, tra l'altro, di uno dei nostri soci che sono più di 20 anni che opera in Cina. Ci sono strumenti e modalità operative commerciali che veramente tutelano l'interlocutore al massimo livello, diciamo. È molto, diciamo, importante gestire anche la transazione lì dove naturalmente si ha la fortuna poi di andare a procurare, nella maniera ottimale, utilizzando delle metodologie che da settore in settore naturalmente cambiano, ma danno una copertura del rischio praticamente del 100%, e non faccio riferimento allo strumento lettera di credito, bensì strategicamente il più delle volte noi chiediamo un anticipo sull'ordine che copre il costo di invio e dell'eventuale ritiro della merce, con obbligo del pagamento, diciamo, allo sdoganamento. Questa è un'operazione che al cinese comunque è ben accetta, nel senso che è stata veramente collaudata, e naturalmente copre molto di più di qualsiasi strumento finanziario che poi è comunque in mano a un operatore cinese, che quindi, diciamo, può far valere alla fine a suo favore in base agli eventi. Per cui qui naturalmente entra in campo un po' la nostra esperienza, cioè è molto importante, soprattutto nella prima fase, per un'azienda che affronta un mercato come la Cina, affidarsi a un operatore che lo possa tutelare, evitando a priori alcuni errori o alcune, diciamo, operazioni pericolose proprio da un punto di vista commerciale. Per cui qui devo dire che noi diamo tutta quella che è la consulenza e la professionalità e l'esperienza per evitare a monte, ecco, strade che possono... Sì, ecco, mi sembra che sembra quasi retorico dirlo, però quando la Cina è una grandissima opportunità in molti casi, è presente, rappresenta però anche grandi rischi, cioè non esistono autostrade, si dice in economia non esistono pasti gratis, ma non esistono autostrade per diciamo, il paradiso delle vendite. Allora, ci sono grandi rischi, perché quello è un mercato fatto di gente che non ha la lena al naso, che ti copia, e lo sappiamo che ti copia, devi tutelarti, devi capire come funziona il distributore, la fedeltà, diciamo, non è un tra i primi valori, non parlo della fedeltà coniugale, ma della fedeltà commerciale nel business, non che forse lo sia qui, però insomma sicuramente non ti devi aspettare un cinese anima bella che dice oh, che bravo che sei, resterò a te fedele tutta la vita. i matrimoni, in questo caso sul matrimonio di interesse, si costruiscono e quindi ci si tutela, brevetti, ne abbiamo parlato decine di volte, perché si andava delle volte senza nemmeno la tutela del brevetto in loco e quant'altro. E poi non ci si improvvisa da un punto di vista delle coperture legali e della conoscenza o del rapporto con chi già opera in Cina. Noi abbiamo preso la GESA, ho detto bene, ed ora come esempi, ma non voglio far torto a nessuno, ci sono varie società che operano dall'Italia sulla Cina, che operano già in Cina, che hanno sede legale lì, c'è chi si occupa più della parte legale, della parte commerciale, dell'impiantistica, insomma non mancano, non siamo all'anno zero. L'importante è non pensare di andare in Cina così, siccome sia un buon prodotto, sostituisco il mercato francese, ponio quello spagnolo, quello russo che sta calando, con quello cinese tout court. La Cina fa tanta manifattura, la Russia ne fa pochissima, già questa è una differenza enorme, quindi hanno il know-how. Ultimo tema, rapidissimi, prima di arrivare poi alle rotte commerciali, e invece vorrei concludere con questo, con Saro Capozzoli, gli investimenti cinesi in Italia. Allora, per quello che riguarda gli investimenti, il 2014 rischia di diventare per l'Italia, rischia si fa per dire, l'anno in cui l'Italia è il paese che ha attratto in Europa i maggiori investimenti cinesi. Certo, c'è stato l'annuncio dell'acquisizione del 40% di Ansaldo Energia da parte di Shanghai Electric per 560 milioni di dollari. E il 35% della cassa deposito e prestiti reti acquisita da State Grid, 2 miliardi di dollari americani. Poi la People's Bank of China è entrata in Enel ed Eni con il 2% ciascuno, già questo fa la montare. Però c'è il gruppo Ferretti passato in mano cinese, ci sono 187 imprese a partecipazione cinese censite in Italia, 110 sono state oggetto di investimenti greenfield, quindi imprese create ex novo dall'investitore cinese, eventualmente in partnership con investitori italiani. Negli altri 77 invece sono state acquisite attività già presenti. Alla fine abbiamo in Italia, con almeno un'impresa partecipata, 94 gruppi cinesi e 54 gruppi di Hong Kong per 272 imprese, di cui appunto 187, quelle che citavo prima, partecipate da investitori cinesi, e 85 da investitori con sede a Hong Kong. 12.000 persone impiegate in tutto in queste imprese e giro d'affari di 6 miliardi di euro. Saro Capozzoli, potremmo fare un'intera puntata su questo, però che cosa cercano i cinesi quando vengono a mettere i soldi o per comprare il 100% o per creare ex novo, appunto greenfield, o per comprare una quota di imprese italiane? Ecco, direi che dall'anno scorso si è creato uno spartiacque in questo, su questo tema. Diciamo che c'è un'indicazione ben precisa da parte del governo cinese di Xi Jinping alle proprie aziende di internazionalizzarsi. Mentre prima abbiamo parlato di internazionalizzazione delle nostre aziende verso l'estero, qui c'è la spinta del governo cinese alle aziende locali, che sono anche molto grosse, sono gruppi enormi in molti casi, che non sono presenti in Europa o in Occidente, e quindi c'è questa tendenza, che sarà il prossimo anno, sarà secondo me ancora più schioppettante, di aziende cinesi che cercano opportunità. E allora, quando si parla di grandi investimenti come in Ansaldo o in altre grandi aziende, sono tutti soldi che vanno a finire poi in mano allo Stato. Quello che noi cerchiamo sono investimenti che vanno a finire nelle aziende private o pubbliche, quello che sia, per finanziare poi l'eventuale sviluppo e espansione delle nostre aziende verso l'Asia e non solo. Cioè la Cina sta cercando delle piattaforme in Europa dove entrare e crescere assieme alle aziende europee, quindi non solo italiane. Quindi è un discorso un po' diverso. Qui stiamo parlando di aziende quotate in borsa molto spesso, ed è un discorso win to win, cioè si va proprio a creare valore non solo diciamo per il cinese, ma anche per l'azienda, che poi trova in questo modo una espansione più fluida e più strutturata verso l'Asia. Quindi da quello che lei sta dicendo, però, il processo iniziato l'anno scorso è un processo che continuerà anche l'anno prossimo? Sì, cioè abbiamo tutte le segnali, abbiamo fatto diversi incontri con diverse aziende quotate in borsa, c'è un programma proprio di valutazione delle nostre opportunità, c'è una banca cinese che addirittura ha creato a Parigi un ufficio M&A con 50 persone che mandano informazioni in Cina alle aziende quotate proprio per valutare... Ma non solo quelle francesi? Quelle... No, tutto in Europa. Tutta Europa. C'è qualche tipologia di azienda che in Cina interessa di più? Non vorrebbe dire meccanica industriale? Guarda caso, sono aziende nell'anno dell'Expo, nell'industria alimentare, la sicurezza alimentare, cioè loro sono molto sensitive, i cinesi vogliono mangiare prodotti all'estero e anche eventualmente prodotti localmente con di stile occidentale. Cioè con la sicurezza che mettiamo noi, perché non è che la sicurezza dei prodotti alimentari cinesi sia quindi, al massimo. Con la sicurezza, con la nostra expertise, la nostra tradizione, i nostri sistemi di controllo è quello che è. Quindi il sistema aerospaziale, il sistema della robotica, e la Cina sta investendo tantissimo in questo settore e vuole automatizzare le proprie industrie anche per un problema che vuole creare standard anche nell'industria, quindi la gente l'andrà a impiegare altrove, l'andrà a impiegare nei servizi. C'è un'evoluzione in questo momento. Tenete conto che questo succede con un governo che, mentre per 30 anni la Cina è stata governata da governi che avevano tutti ingegneri, perché si doveva costruire un paese, con questo governo sono quasi tutti economisti. C'è un approccio molto razionale, infatti il governo ha deciso anche di non intervenire più nel salvare banche o imprese, ma le sta spingendo a maturare. È un momento molto positivo, nonostante lo slowdown, cioè il rallentamento cinese, il rallentamento dell'economia è un qualcosa di quasi voluto per far evolvere e maturare il mercato cinese. Che è un po' quello che ricordavamo all'inizio sui consumi interni. Allora, grazie intanto a Roberto Mandola, partner di Dora China Channel Management, grazie all'ingegnere Saro Capozzoli, fondatore di appunto GESA, investitore legato di GESA Capital Holding. Poi tutti, so che voi chiederete dove posso, trovate tutto quanto su internet. Adesso invece c'è il traffico e se parliamo di Cina, come di qualunque altro paese, di rapporti commerciali, occorre poterci anche arrivare in Cina e far arrivare i cinesi in Italia, che è stato un grossissimo problema negli anni passati per scelte che non voglio commentare, anche dell'allora l'Italia, e per cui si volava su Francoforte o i turisti cinesi arrivavano a Parigi e spendevano i soldi a Parigi e a Londra comprando anche in moda italiana ma pagando l'IVA, un classicone in quei paesi. E parlando di Cina e dei rapporti B2B, business to business con la Cina, non sfugge, anche perché ne abbiamo accennato più volte, l'importanza di avere poi anche delle rotte di traffico aereo funzionali a questo. Più volte gli imprenditori si sono lamentati della difficoltà e ammessa come errore anche a suo tempo dall'Italia nel raggiungere la Cina, il giro per Francoforte, per Monaco di Baviera e quant'altro. Allora, sul fronte dei rapporti Italia-Cina c'è una novità che partirà dal prossimo gennaio, e la novità la lancia quella che è stata definita la compagnia votata nel 2014, quindi quest'anno, come migliore compagnia aerea al mondo, riconoscimento già ottenuto nel 2009, 2005, nel 2003. Mi riferisco a Cathay Pacific, compagnia aerea di Hong Kong, 6 miliardi e 700 milioni di euro di capitalizzazione, giro d'affari di oltre 10 miliardi. Siamo in collegamento con la responsabile per l'Italia e anche l'area del Mediterraneo di Malta di Cathay Pacific, dottoressa Silvia Tagliaferri, buonasera innanzitutto. Buonasera a lei, dottor Barisoni. Allora, voi avete trasportato l'anno scorso quasi 30 milioni di passeggeri e avete 32 mila dipendenti nel mondo. Sì. Non so, quest'anno immagino che le cifre siano in crescita, perché abbiamo visto tutto la IATA, che è la vostra organizzazione internazionale di tutte le compagnie aeree, a rialzare la stima sui profitti delle compagnie aeree per il 2014, portandola praticamente a 20 miliardi contro i 18 miliardi previsti a giugno, in virtù principalmente del calo del prezzo del petrolio. E addirittura per il 2015 ci sarà un aumento dei profitti complessivamente dati delle compagnie aeree, sempre secondo la IATA, che toccheranno il livello di 25 miliardi, con tariffe che dovrebbero scendere del 5% complessivamente quest'anno e di quasi 6% nel settore cargo. Vi ritrovate intanto in queste cifre della IATA? Cioè anche voi avete avuto un beneficio dal prezzo del petrolio? e utili in aumento. Poi arriviamo all'offerta sulla rotta Italia-Cina. Sicuramente la diminuzione del prezzo del petrolio è un fattore estremamente vantaggioso per tutti, per la nostra compagnia, ma credo non solo. Il costo del carburante rappresenta senz'altro il costo più significativo, quindi da questo punto di vista c'è sicuramente un grande vantaggio. Si parla più di tasse, perché per noi il carburante è una sovrattassa, che non di tariffe, ma comunque sì, ci siamo poi nel costo complessivo della tariffa, è proprio così. Ma questo, mi scusi per capire, prevederà e porterà anche a un leggero abbassamento delle tariffe oppure no? Per quanto ci riguarda ci sarà un abbassamento, noi seguiamo costantemente l'andamento del prezzo del carburante, quindi se scende il costo del carburante ovviamente scenderà immediatamente, o sta scendendo, il costo della sovrattassa carburante, che però per noi ha tutti gli effetti una tassa, non è strettamente collegata alla tariffa. È chiaro che la tariffa finale poi ne risente positivamente. Beh, bene, almeno una buona notizia, anche se non dobbiamo aspettarci, ho già capito, grandi ribassi, ma una buona notizia c'è. Veniamo al collegamento che annuncerete dal mese prossimo, se ho ben capito, da Roma a Fiumicino. Aumenterete la capacità di trasporto del 30% di passeggeri in più. Voi già collegate l'Italia, intesa come Roma, Fiumicino e Milano Malpensa, con Hong Kong, no? Sì, l'unico volo diretto dall'Italia su Hong Kong. Esatto. Perché un 30% in più di capacità di carico passeggeri? Perché c'è stato un rinnovamento anticipato, una sostituzione dell'Airbus 340-300 che opererà fino alla fine dell'anno sulla rotta di Roma-Fiumicino, con una sostituzione a favore del Boeing 777-300 che già è in servizio su Milano dal 2010, da quando abbiamo aperto la rotta, e quindi ci sarà un aumento considerevole di posti in tutte le classi, quindi sia business che premium economy che classe economica. Ecco, voi questo lo collegate in qualche modo anche se l'aereo, appunto, la rotta è la Hong Kong-Roma-Fiumicino o la Roma-Fiumicino-Hong Kong, lo collegate anche all'Expo? Assolutamente sì, noi ovviamente siamo impegnati in moltissime associazioni dei paesi asiatici, in particolare ovviamente la Cina, ma non solo, e quindi c'è stata questa specifica richiesta anche dal mercato, che abbiamo cercato ovviamente di riflettere nel nostro segmento. Sicuramente stiamo cercando di collaborare con tutti quanti, perché l'evento di Milano, l'Expo, sia un evento che riguarda tutta l'Italia, non soltanto Milano. Ecco, noi intervistiamo spesso le compagnie, l'ultima è stata Emirates, abbiamo avuto spesso Alitalia, adesso Alitalia in fase di transizione, la riavremo ospite molto volentieri appena saranno pronti, perché, ripeto, non ci sfugge che quando parliamo poi di infrastrutture per i paesi emergenti, o bene, più che emergenti, assolutamente emersi per le nuove ricchezze a livello mondiale, l'infrastruttura qua si chiama collegamento aereo, non si chiama infrastruttura come ponte, ferrovia o autostrada. Ecco, che tipo di feedback, di reazione state raccogliendo sull'Expo? Diffidenza? Perché le cifre che noi abbiamo visto con l'Expo dei biglietti non venduti al cliente finale, ma diciamo ai tour operator che poi dovranno collocarli, sono più che confortanti. È vero. Però vorrei capire se anche voi, se questa è la nostra, diciamo così, sensazione, o anche voi ricevete un interessamento più forte di quanto non si abbia consapevolezza in Italia. Guardi, da parte nostra posso dire che fino a qualche mese fa di Expo nelle aree che noi serviamo se ne sapeva davvero poco. Devo dire che negli ultimi mesi c'è stata un'accelerazione e in effetti si comincia a sentire un grande interesse. Questo è vero in Cina, non soltanto nelle città principali ma anche in quelle cosiddette secondarie, che poi secondarie non sono, sicuramente Hong Kong, anche Taiwan e un po' in tutti i paesi asiatici che comunque partecipano anche attivamente all'Expo con dei padiglioni. Vuoi soltanto per alcuni cluster come quello del riso, o vuoi comunque in generale con il padiglione. Quindi direi sicuramente che negli ultimi mesi c'è stato un trend confortante sui numeri che appaiono veri. E questo ci fa molto piacere. Senta una cosa, ma visto che voi l'offerta ce l'avete su Milano Malpensa, ripeto, il volo diretto, ma anche su Roma, prevedete un collegamento treno-aereo? Per esempio Emirates ha illustrato un accordo con le Ferrovie dello Stato e quindi con il Frecciarossa. Mi riferisco chiaramente alla parte Roma, perché uno che atterra a Malpensa praticamente è quasi già all'Expo, per cui non penso che abbia bisogno. Guardi, di tenere, questo prego. È verissimo, però mi dispiace molto dover segnalare che le ultime decisioni circa il discorso Linate Malpensa non sono confortanti, perché alla fine Malpensa è comunque l'aeroporto per le connessioni intercontinentali e questo fatto di ampliare i collegamenti su Linate sicuramente non aiuta compagnie come noi, che comunque hanno investito e continuano a investire e a voler investire sull'aeroporto di Malpensa. Detto questo, noi siamo stati i primissimi ad implementare, riconoscendo appunto queste difficoltà nel poter avvicinare i propri passeggeri ai due hub di Roma e Fiumicino, abbiamo implementato un progetto di mobilità integrata che praticamente per tutte le tipologie di viaggio, quindi in qualunque classe si voli, viene offerto questo servizio di treno più limousine che avvicina, quindi una volta arrivati alla stazione, all'aeroporto d'imbarco, sia che questo sia a Milano o Roma. Quindi direi che sicuramente abbiamo messo in piedi ogni facilitazione possibile per avvicinare i passeggeri ai nostri hub. Ecco, mi dica un'ultima cosa, dottoressa Tagliaferri, per quello che riguarda invece la clientela, il business in questo caso, soprattutto, che non è che la clientela B, chi va in Cina o viene in Italia dalla Cina per lavoro, viaggi in business, vuol dire solo che lo fa per lavoro, non per turismo. Voi notate un incremento più forte dell'incoming, cioè dei voli che partono, originano dall'Asia per venire a Milano o a Roma, o dell'outgoing, quindi dei voli che originano a Roma e Milano per andare in Asia? Direi che le cose sono abbastanza equivalenti, perché questa comunque familiarizzazione anche con Expo fa sì che chiaramente si approfitti magari di Expo per visitare l'Italia, al contempo però sempre più italiani per business vanno all'estero e vanno in Asia. Oserei dire che anche in termini poi di traffico leisure, secondo alcuni studi economici per il 2014, sembra che ci sia un'inversione di tendenza e quindi stiano cominciando a prevalere le destinazioni dell'Asia piuttosto che quelle dell'Occidente. Bene, in bocca al lupo all'Expo e anche voi, chiaramente ai vostri dipendenti. Grazie alla responsabile per l'Italia di Cathay Pacific, Silvia Tagliaferri. Grazie moltissimo anche a voi e tanti auguri. Ed è veramente tutto per quest'anno, non solo per la puntata di Focus Economia, per quest'anno. Un ringraziamento a tutti i tecnici di Radio 24, non li posso elencare tutti, e come sempre a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, per avermi sopportato anche quest'anno. Ci risentiamo nel 2015. Un augurio di buon Capodanno e buon inizio anno, come sempre, soprattutto a partire da chi lo passerà lavorando. Radio 24. La passione si sente.